Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Abbiamo voluto iniziare con un breve estratto di Star Wars per ricordare Carrie Fisher, che tutti noi, nonostante i tanti ruoli che ha interpretato, ricordiamo come la principessa Leila di Guerre Stellari. È morta a Los Angeles, dove era stata ricoverata a seguito di un infarto che l'aveva colpita in aereo pochi minuti prima dell'atterraggio. In realtà le sue condizioni erano subito apparse molto gravi, era stata subito rianimata, portata in ospedale, in terapia intensiva. Purtroppo però ogni sforzo è stato inutile. E a proposito di cuori spezzati, anche Debbie Reynolds, la madre di Carrie Fisher, non ha retto al dolore, probabilmente per la perdita della sua figlia, proprio questa notte, a causa di un ictus, è espirata all'ospedale di Los Angeles. Allora oggi, con la nostra esperta, vogliamo occuparci del cuore delle donne. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Maddalena Lettino, che è responsabile dell'unità operativa di cardiologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Milano. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Partiamo con due notizie tragiche. La prima è la morte di Carrie Fisher, ma anche la sua mamma. Sembra che quando si dice il dolore uccide, ecco. Sono due condizioni naturalmente diverse. La prima è morta per un infarto, la seconda a causa di un ictus, due situazioni assolutamente diverse, ma è la coincidenza. Una mamma che muore subito a un giorno di distanza dalla figlia spinge, no, a fare questa considerazione: di dolore non si può morire. Dubbio, non c'è dubbio, e purtroppo l'apparato cardiovascolare è quello che del dolore risente fortemente. Dolore inteso naturalmente come evento stressante. Devo dire che l'epidemiologia ci dice che nelle donne giovani c'è un incremento dell'infarto, quindi si muore più facilmente di problemi cardiaci. Nelle donne più anziane, rispetto agli uomini della stessa età, è molto più frequente l'ictus rispetto all'infarto, e sembra quasi che i due membri della famiglia Fisher abbiano in qualche modo rispettato, certo, l'epidemiologia. Dottoressa Lettino, nonostante gli enormi progressi fatti dalla cardiologia in questi ultimi 50 anni, non possiamo fare a meno di sottolineare, lei l'ha già anticipato, che le malattie cardiocircolatorie sono ancora la prima causa di morte nelle donne e negli uomini nel nostro paese, come nel resto del mondo industrializzato, mondo occidentale che dir si voglia. Quindi non bisogna abbassare la guardia. La prevenzione, e sottolineo in rosso e blu questa parola, funziona, perché perché le malattie cardiache si possono prevenire, ma il primo passo è la conoscenza, l'informazione. Dottoressa Lettino, partiamo da qua. Assolutamente vero, l'informazione ci aiuta, a parte a mettere in atto naturalmente tutte le misure preventive, a riconoscerle quando compaiono, perché non è così immediato e non è così scontato fare la diagnosi corretta al momento giusto nel caso dell'infarto, ma se vogliamo anche per l'ictus. Più la diagnosi è tempestiva e maggiori sono le probabilità di poter intervenire e quindi eventualmente di modificare il decorso della malattia. E le donne da questo punto di vista sono un po' svantaggiate, almeno per due ragioni. Una, soprattutto se sono giovani, perché i sintomi non sempre hanno le cosiddette caratteristiche di tipicità, non compaiono con il classico dolore o quantomeno è meno frequente che questo si verifichi col classico dolore dietro lo sterno. Possono i sintomi essere assai subdoli, prevalere il malessere, prevalere la localizzazione del dolore magari alle braccia, magari in un'altra posizione, e quindi rimanere queste manifestazioni misconosciute per un tempo sufficientemente lungo a fare in modo che l'infarto intanto progredisca e naturalmente dia i suoi esiti peggiori. E la seconda componente, che vengono difficilmente o comunque meno facilmente riconosciute anche dagli operatori sanitari che si occupano di loro, e quindi un sintomo subdolo che arriva all'attenzione del pronto soccorso del medico qualche volta viene sottovalutato e anche in quel caso si perde altro tempo. Dottoressa Lettino, quindi sintomi subdoli di interpretazione non univoca, ci aiuti proprio schematicamente, riprendiamoli rapidamente, così ci aiuta a conoscerli per non sottovalutarli, certo, per allora, evitare questo rischio anche di arrivare tardi a chiedere aiuto. Chiaramente, allora tutte le volte che c'è una sensazione di malessere che viene avvertita come un malessere interno di tipo viscerale che naturalmente riguarda il torace, magari accompagnato a transitoria mancanza di respiro, a sudorazione fredda e assolutamente inspiegabile, dolori che non sono necessariamente solo nella regione dello sterno, ma che si irradiano alle spalle, che magari sono presenti solo nella parte toracica posteriore o solo alle braccia, dolori che vanno alla base del collo, che arrivano fino alla mandibola, sintomi quindi che fanno comunque parte dell'insieme dei sintomi dell'infarto, ma di tante altre cose. Se compaiono in modo inusuale, improvviso, dopo una forte emozione, o se sono soprattutto così intensi da portare la paziente all'osservazione del medico, non sottovalutiamoli, teniamola in osservazione magari un po' di più, facciamo un esame in più per essere sicuri che non sia un problema cardiaco. Dottoressa Lettino, quindi l'infarto non è solo un problema di uomini, ne sono colpite anche le donne e l'esito è spesso peggiore, come dimostra il caso della principessa Leila. Esattamente, nelle donne giovani è stato dimostrato che il numero di infarti sta diventando progressivamente sempre maggiore e quindi in termini di numero si stanno eguagliando i due sessi, anche se per pari età gli uomini sono ancora colpiti più spesso delle donne. Ma quando l'infarto però arriva alla donna giovane, e per donna giovane intendo naturalmente i 50, i 60 anni, che è esattamente l'età della nostra amatissima eroina, ecco che l'infarto può essere nelle donne più facilmente fatale che negli uomini. Quindi la mortalità femminile in quelle fasce di età è superiore a quella degli uomini, decisamente. Dottoressa Lettino, durante tutto il periodo fertile noi donne siamo protette dagli ormoni. Quando entriamo in menopausa questa protezione svanisce e quindi i nostri rischi, il rischio del cuore di una donna e quelli del cuore di un uomo si equivalgono. Ma quindi la menopausa diventa un problema, un momento particolarmente delicato per le donne. Ma a proposito di menopausa, io ho letto che le donne che vanno in menopausa prima dei 45 anni hanno una probabilità aumentata di essere colpite da infarto rispetto a donne che vanno in menopausa dopo i 50. È corretto? Certamente. Quindi è corretto, anche il momento in cui si va in menopausa può avere un effetto protettivo o no nei confronti dell'infarto. Non c'è dubbio. La nostra protezione ormonale fa sì quindi che le donne, come dicevamo prima, hanno globalmente un numero di eventi cardiovascolari minori rispetto a quello degli uomini per tutto il periodo dell'età fertile. Questo abbiamo visto che non ci protegge completamente dalle malattie cardiovascolari, però evidentemente la protezione ormonale è relativamente vasta. Nel momento in cui viene meno, invece subentra l'importanza di tutti gli altri fattori di rischio cardiovascolare, aumenta la probabilità di essere ipertesi, di diventare ipercolesterolemici, che affiori un diabete che fino a quel momento non aveva dato segno di sé, e le donne quindi esposte agli stessi fattori di rischio degli uomini sviluppano l'infarto tanto quanto loro e finiscono per prevalere rispetto agli uomini, non fosse altro perché la loro sopravvivenza è significativamente aumentata. E quindi il momento della menopausa è il momento in cui bisogna stare particolarmente attenti ai fattori di rischio. Ecco che lì la prevenzione cardiovascolare diventa fondamentale. Dottoressa, l'infarto a volte chiama infarto. I dati dell'AMCO, che è l'Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri, ci dicono che chi ha avuto un infarto corre un alto rischio di svilupparne un secondo. Nei primi 2 anni dopo un infarto, 6 pazienti su 100 rischiano di essere di nuovo ricoverati e nel 30% dei casi proprio per una sindrome coronarica acuta. Quindi la prevenzione continua e immagino in modo molto più rigoroso, ma al tempo stesso senza limitare o influire sulla qualità di vita, che può riprendere a tutti gli effetti, dottoressa Lettino. La vita riprende e vorrei con lei mandare un messaggio alle persone, uomini o donne, che hanno avuto un infarto e che spesso proseguono un po' la loro vita con il freno a mano tirato. Ecco. Questo è vero, allora diciamo che sicuramente l'AMCO, che è una delle società nazionali, ha fatto tante campagne di pensiero per sensibilizzare sull'argomento della prevenzione, e l'argomento della prevenzione vuol dire che chi ha già avuto una malattia coronarica, per sindrome coronarica acuta intendiamo un attacco cardiaco in generale, che può essere un infarto esteso, un infarto più piccolo, un episodio di dolore toracico legato comunque alla malattia delle coronarie, evidentemente ha già dato segno di sviluppo di quella malattia che continua ad essere presente nei suoi vasi e potrebbe instabilizzarsi una seconda, una terza, una quarta volta con maggiore facilità di chi invece non ha mai avuto un altro episodio. Nel momento in cui una crisi cardiaca arriva e magari non ha lasciato grandi esiti, ci auguriamo tutti che presa in tempo gli esiti siano i minori possibili, ecco che l'attenzione nei confronti di tutto ciò che riguarda una buona condizione di vita deve diventare una priorità assoluta. Buona condizione di vita non vuol dire non mangiare più, vuol dire mangiare sano, quello che avremmo dovuto fare anche prima. Buona condizione di vita vuol dire fare una vita più attiva e quindi per esempio cogliere l'occasione per implementare quell'attività e quel movimento che magari non abbiamo mai fatto diventando esageratamente sedentari, vuol dire fare una vita sessuale attiva e sicuramente soddisfacente, senza stress e quindi senza privarsi di tutti quei piaceri che fanno parte della nostra vita, ma della vita sana e che sono quindi rappresentati da un'alimentazione curata, sono rappresentati da un'attività fisica regolare, da una condizione di maggiore rilassamento e diciamo piacere delle cose quotidiane possibile, questo non c'è dubbio. Dottoressa Lettino, raccolgo alcuni messaggi che arrivano su WhatsApp al 349-238-6666, anche la diretta all'800-24-0024. Quali sono i fattori di rischio per l'infarto? Ho 48 anni, sono sedentario, sovrappeso maschio e leggermente iperteso. Rischio? Direi di sì. Diamo due indicazioni perché non si può, per valutare un po' il proprio rischio cardiovascolare. Abbiamo ancora un paio di minuti di tempo. Io direi sicuramente il sovrappeso è la prima cosa che valorizzo. Ci sono delle buone premesse per perdere peso. Perdere peso vuol dire, finché naturalmente non si è raggiunto il peso forma, ridurre non solo l'apporto di principi alimentari ricchi di colesterolo, grassi animali, tutto ciò che deriva dal burro e derivati, ma naturalmente ridurre anche l'apporto calorico dei cereali e fare in modo quindi che oltre al regolare il quantitativo di grassi presenti nella dieta ci siano anche meno calorie. Una volta raggiunto il peso forma, cosa che quindi con una buona alimentazione si può fare abbastanza facilmente, bisogna cercare poi di privilegiare l'utilizzo della frutta, della verdura, del pesce, delle fibre che naturalmente aiutano a non assorbire esageratamente i nutrienti nell'intestino. Regolando il peso, che viene ottimizzato anche attraverso l'esercizio fisico regolare, un 30 minuti di camminata al giorno, direi che tutti quanti possiamo farla, ecco che si regolarizzano meglio la pressione arteriosa, che magari ha cominciato a dare segno di sé, ma potrebbe diventare normale e rimanerlo ancora per un po'. Sarà naturalmente un soggetto che svilupperà un'ipertensione vera dopo, ma nel frattempo ha regolato meglio anche quella componente. E una mano a tenere il colesterolo un po' più basso glielo diamo anche con questa semplice, quindi modificazione dello stile di vita. Un buon monitoraggio della pressione del colesterolo nel tempo e al primo rialzarsi, nonostante lo stile di vita sano e il peso forma, sarà un'indicazione per iniziare un'adeguata terapia che poi bisognerà portare avanti per tutta la vita. Dottoressa Lettino, la ringrazio, le auguro un buon inizio dell'anno grazie. E l'aspettiamo presto a Cuore Denari. Grazie e buona giornata. Grazie e tanti auguri anche a voi. Andiamo adesso a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e continuiamo a parlare di salute. Cuore e Denari. Abbiamo parlato del cuore delle donne, continuiamo la nostra rassegna stampa. Tra i buoni propositi per il nuovo anno, chi di voi, uomo o donna, proverà a smettere di fumare o tenterà nuovamente di farlo? Se avete bisogno di un aiuto, chiamateci, scriveteci a Cuore Denari, mandateci un WhatsApp al 349-238-6666, potete usare anche il nostro numero verde, noi vi daremo una mano con i consigli dei nostri esperti del Centro Antifumo dell'Istituto Nazionale dei Tumori diretto da Roberto Boffi. Pensateci e fateci sapere, insomma cogliete questa occasione, anno nuovo, vita nuova. non perdete tanto tempo e contattateci. Se invece state aspettando un bambino, non avete assolutamente tempo da perdere. Se fumate, dovete immediatamente smettere. Fumare in gravidanza, fra i tanti effetti negativi che sono ampiamente documentati, danneggia il buon funzionamento dei reni del bambino e, attenzione, può predisporlo allo sviluppo di una malattia renale cronica in età adulta. Quindi della serie: se fumate, smettete; se non fumate, non iniziate a farlo, anche se al momento non avete alcuna intenzione di avere figli. In linea con noi è tornata a trovarci la dottoressa Francesca Testa, ginecologa del Centro Medico Sant'Agostino di Milano, con cui commentiamo rapidamente lo studio fresco di cui vi ho anticipato i risultati, studio che arriva dall'Università Giapponese di Kyoto. Dottoressa Testa, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, un altro buon motivo per non fumare: il fumo danneggia i reni del nostro bambino, un danno che si aggiunge a un elenco, dottoressa, piuttosto nutrito e assolutamente documentato e certificato, perché il fumo nuoce gravemente alla salute della mamma e alla salute del suo bambino. Partiamo da qua. Esatto, il fumo di sigaretta, la sigaretta contiene nicotina e contiene sostanze cancerogene. Sono due elementi che possono provocare dei gravi danni, certamente sulla madre, ma certamente sul feto. E la nicotina determina un ridotto apporto di ossigeno al feto e determina una vasocostrizione. Questo significa che la placenta funzionerà peggio durante la gravidanza di una donna che fuma, e che in conseguenza di questo il bambino crescerà meno da una parte, e dall'altra avrà dei danni su una serie di organi, tra cui per esempio il rene. Mm. Si è visto che i bambini nati da madri fumatrici hanno forti fumatrici, hanno un ridotto volume dei propri reni, hanno dei reni destinati in età adulta a funzionare meno bene, ad ammalarsi più facilmente, e saranno bambini che avranno in età adulta una più elevata incidenza di un più elevato rischio di sviluppare una elevata pressione sanguigna. Quindi ricordiamo che la salute mette le sue radici proprio nella pancia della mamma. Ci sono degli studi magnifici su questo, dottoressa Testa. Sì, ci sono molti studi sull'argomento che dimostrano in maniera inconfutabile che il fumo, la sigaretta e gravidanza, l'uso di nicotina determinano dei danni seri non soltanto sui reni ma anche su altri organi, per cui abbiamo un rischio più elevato di malformazioni sul cuore, sui polmoni, e abbiamo dei danni anche sul sistema nervoso centrale del bimbo, il quale bambino, una volta nato e una volta cresciuto, presenterà per esempio un ridotto rendimento scolastico. Quindi mamme all'ascolto, non fumate, anche se i bambini sono già grandini, non fumate, spegniamo la sigaretta, diamo il buon esempio. Dottoressa Testa, anche l'alcol è bandito nei 9 mesi di gravidanza. L'alcol è un altro dei veleni della gravidanza. Ma è tassativo o uno strappetto? Siamo in occasione nelle feste, uno strappetto ogni tanto per un brindisi o una birretta sono permessi o no assolutamente? Allora, un brindisi a Capodanno assolutamente non è proibito, si può fare. Quello che assolutamente è da evitare è l'uso sistematico di alcol durante la gravidanza. Addirittura si dice che meno si beve in gravidanza, meno alcol si introduce, meglio è. Questo riguarda anche semplicemente l'uso abituale di vino ai tasti. Quindi via. Perché 9 mesi passano veloce poi, dottoressa Testa. Ecco, esatto, ecco. E si può fare questo tipo di si può sacrificio. Fare. Dottoressa, anche le mamme si prendono l'influenza, ma la gravidanza impone particolare attenzione e cautele nell'assunzione dei farmaci, che non possono essere mai presi alla leggera, questo è evidente, ma soprattutto quando si aspetta un bambino. Pensiamo alle mamme con la pancia e con l'influenza, magari che hanno preso dall'altro pargoletto che viaggia per casa. Allora, l'influenza innanzitutto c'è da dire una cosa, che il virus influenzale non può causare malformazioni sul nascituro, e questo è un punto importante. Certo. Sicuramente la mamma che fa l'influenza avendo delle riserve immunitarie ridotte, è più facilmente aggredibile da complicanze dell'influenza stessa. Quindi è fondamentale che si curi bene, che stia a riposo, che si idrati molto, che usi come farmaco il paracetamolo. Si può usare per ridurre la temperatura, ma soltanto quando essa sia veramente elevata, cioè oltre 38 gradi. Non ha nessun senso prendere farmaci quando prima c'è qualche linea di febbre. Allora, dottoressa, la voglio salutare con un messaggio che ci manda Lia. Il fumo danneggia il feto. Un tempo le donne non fumavano. Anche per questo le attuali nonne sono definite dai medici antiche querce. Grazie per il messaggio di Lia, grazie alla dottoressa Testa per essere stata con noi, auguri anche a lei, torni presto a trovarci. Grazie, molti auguri a tutti voi e ricordiamoci meno fumo e meno alcol possibile per tutta la gravidanza, questo è il messaggio. Grazie dottoressa Testa. E noi per chiudere questa prima parte di trasmissione parliamo sempre di una ricerca che questa volta è firmata da dei ricercatori italiani. Sì, l'aria, la qualità dell'aria è diventato un po' il nostro tormentone. Vogliamo sempre tenervi aggiornati perché sempre più lavori scientifici stanno analizzando l'impatto che l'inquinamento dell'aria ha sulla nostra salute. Adesso uno studio italiano mostra che anche per il tumore alla mammella esiste un nesso tra concentrazione di particolato sottile e prognosi infausta della malattia. Si tratta del primo studio in Europa, terzo nel mondo dopo California e Cina, che identifica una relazione proprio tra esposizione e PM2 e prognosi del tumore della mammella. Ne parliamo con il dottor Paolo Contiero, che è responsabile della struttura semplice dipartimentale di epidemiologia ambientale dell'Istituto Nazionale dei Tumori, che ha condotto lo studio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Intanto, dottore, lei sarà contento perché il suo collega Roberto Boffi è molto di casa qua a Cuore Denario. Ha lanciato la proposta ai nostri ascoltatori a fine anno, per l'anno nuovo, di segnalarci via WhatsApp oppure mandandoci un messaggio, o la cosa migliore sarebbe mandarci una mail. Il loro desiderio, l'intenzione di smettere di fumare, e io ho promesso che il dottor Boffi, insieme al dottor Boffi, li avremo accompagnati in questa sfida che è molto impegnativa, ma è un investimento. Dottor Contiero, lei me lo può dimostrare anche alla luce soprattutto delle ricerche che sta facendo, che è molto redditizio. Dottor Contiero, bellissima iniziativa. Tenete conto che il fumo è una delle cause principali di insorgenza di malattia per le neoplasie e condiziona anche la prognosi, quindi questa iniziativa è assolutamente lodevole. Una notizia non bellissima è il fatto che il tumore del polmone nella popolazione femminile è in aumento, ed è in aumento proprio a causa dell'abitudine al fumo che anche voi donne, per copiare noi maschi, avete intrapreso. Quindi, è vero. Bellissima iniziativa. Pessima idea. Dottore, allora, volevo il vostro studio è una grande novità, è particolarmente interessante. Noi abbiamo 2 minuti per commentarlo, ma a noi serve, che non siamo degli addetti ai lavori, capire in quale direzione è andato e che cosa ci porta questo studio, che è legato proprio, lei ha detto una parola chiave, prognosi. L'inquinamento ha degli effetti sulla prognosi del tumore della mammella. Dottore. Esatto, guardi, in questi anni è stato molto studiato la relazione tra l'incidenza dei tumori, quindi l'insorgenza, il numero di nuovi casi, e l'inquinamento atmosferico. Come sapete, il nostro istituto ha collaborato a un progetto che ha identificato una relazione causale tra l'insorgenza di tumore del polmone e il particolato atmosferico. Molto meno studiata è la relazione tra la prognosi, cioè quello che succede a una donna, a una popolazione che ha avuto una diagnosi di tumore, sì, no? E gli inquinanti atmosferici oppure gli inquinanti in generale. Quello che abbiamo osservato con questo studio, che è basato su più di 2000 donne tra i 50 e i 69 anni, è il fatto che questa relazione esiste e induce un aumento di rischio tra il 70-80% per le donne che sono esposte a particolato atmosferico. Quindi tenga conto che ci sono attualmente quasi 700.000 donne in Italia che hanno avuto una diagnosi di tumore della mammella, no? È il numero di casi prevalenti. A questo punto noi abbiamo a disposizione una nuova arma, certo, per migliorare la prognosi di donne con diagnosi di tumore della mammella, abbassando i livelli di esposizione a particolato atmosferico fine. Quindi questo è il messaggio di questo studio. D'altra parte, sicuramente la ricerca continua. Attenzione, abbiamo una ragione in più per occuparci della qualità dell'aria che respiriamo. Dottor Contiero, l'aspettiamo presto qua a Cuore Denari per ulteriori informazioni. Intanto grazie del suo impegno e complimenti per la ricerca. Va bene, grazie a tutti, vi saluto. Andiamo a sentire il nostro GR, poi di nuovo torniamo insieme. Tra poco vi aspetto. Cuore e denari. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole. E io di parole ve ne do due. Cupping therapy. Due parole che secondo Google sono state tra le più cercate nel 2016. Anche voi le avete googlate o sapete già che cosa significano? Allora, la cupping therapy o coppettazione si basa su un'antica tecnica della medicina orientale cinese e mira a risolvere dei disturbi estetici, anche però disturbi posturali. In pratica che cosa si fa? Si utilizzano delle coppette che vanno posizionate in punti precisi per migliorare la circolazione sanguigna mediante questa sorta di effetto ventosa che si va a creare. La tecnica, tra l'altro, agisce proprio sugli stessi punti dell'agopuntura, provocando quindi delle differenze di pressione su varie parti del corpo. Vengono utilizzate coppette in plastica, in vetro, hanno un diametro di circa 5 cm e lasciano sulla pelle, se andate anche su Google a vedere, una sorta di grossi succhiotti. È una pratica usata, Carmelo ride, ma è così, dagli sportivi e in modo particolare dal nuotatore americano Phelps, ma sta diventando anche una moda tra le star di Hollywood. Allora, noi ci facciamo spiegare tutto e dare delle indicazioni dal nostro esperto Simone Diamantini, preparatore atletico, che è tornato a trovarci. Ciao Simone. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, una pratica antica che sta vivendo una seconda giovinezza, sta tornando di moda. Phelps ha sicuramente dato una mano in questo, però non si diventa come Phelps, non basta la coppetta. No, la coppetta, il cupping therapy è una, come hai detto benissimo tu, è una terapia antichissima della medicina cinese e devo dire è molto utilizzata. Adesso va di moda, ma in realtà è utilizzata da tantissimi anni da osteopati, medici che lo fanno su atleti ma anche su persone normalissime. Ovviamente a seconda del tipo di patologia, è un po' come avere una malattia, non è che tutte le medicine fanno sempre bene, certo. Bisogna a seconda del tipo di problema adeguare e scegliere il tipo di sì, ma ad esempio quali problemi può trattare? Dolori muscolari oppure? In generale sono patologie legate alle infiammazioni tendine muscolari, sì. E anche in generale va posizionata dove ci sono poi i punti dell'agopuntura, è molto, sì, simile a quel tipo di trattamento e negli sportivi tratta prevalentemente problemi di natura osteoarticolare e tendinea. Mentre nelle persone, diciamo, normali può trattare anche piccoli problemi di circolazione periferica, linfodrenaggi o anche problemi di tipo di cellulite, quindi estetici. Ah, però, questo è interessante. Senti, Simone, come utilizzarle e soprattutto come scegliere l'operatore che può utilizzare questa tecnica in modo adeguato? E, insomma, la domanda è a chi affidarsi, ecco, e come fare a sceglierlo? È troppo semplicistico dire a chi è capace. In realtà, certo, bisogna affidarsi a quei centri specializzati in medicina tradizionale cinese o anche a medici, perché all'estero è utilizzata moltissimo da medici o osteopati. Nel nostro paese più da fisioterapisti, medici che hanno questo tipo di specializzazione, e quindi non andare solamente dalle persone che in questo momento la possono usare come moda e come soprattutto modo per guadagnare. Senti, ma che utilizza questo tipo di terapia insieme anche ad altre tipologie di terapie, quindi non solamente ed esclusivamente questo tipo di trattamento, perché comunque insieme ad altre cose può aiutare veramente lo sportivo ma anche la persona comune. Tu l'hai mai utilizzata, Simone? Sì, io l'ho utilizzata sulla rotula, sulla mia rotula personale, perché avevo un problema di rotuleo che mi faceva sempre male, e fa una sorta di scollamento perché praticamente aspira e crea una migliore circolazione periferica nella zona. E tant'è vero che poi anche nelle vari trattamenti di qualsiasi natura comunque è sempre quello l'obiettivo, aumentare la circolazione nella zona laddove c'è un problema di natura infiammatoria. E l'ho usata, l'ho fatta usare anche a dei miei atleti dopo che non si riusciva a risolvere il problema, dopo che avevamo provato tantissime cose, in realtà questa ha risolto problemi che in realtà dovevano essere di tipo chirurgico. È ovvio che io avevo una persona che era specializzata in questo tipo di trattamento e l'ha utilizzata ad hoc. Ecco, come si dice, sapeva dove mettere le coppette. Un'ascoltatrice ci scrive da Bergamo: Tina, questa terapia la praticava una signora 40 anni fa nel mio paese per il mal di testa e aggiunge anche per l'epilessia, e funzionava. Abbiamo detto infatti che è una tecnica molto antica, bisogna però affidarsi a degli operatori che la sappiano mettere in pratica bene. E per quanto riguarda questo effetto, questa sorta di succhiottone che rimane sulla pelle, brucia, fa male? Dà fastidio, come un piccolo livido, è un po' come quando si va dal fisioterapista e deve fare un lavoro molto intenso su determinate persone e crea un livido importante. Tant'è vero che ci sono persone alle quali non è indicato questo tipo di trattamento, che sono le persone con fragilità capillare, che hanno problemi di microcircolo abbastanza evidenti, non che ha problemi di piccola ritenzione. Certo. Quindi persone che magari prendono farmaci per l'ipertensione in modo da tanti anni, quindi che comunque hanno un problema circolatorio periferico già abbastanza compromesso, non sono indicati. Queste sono le persone più, diciamo, da cui stare lontani da questo tipo di trattamento. Grazie Simone, buon anno. Grazie anche a te, auguri. E nell'attesa, se l'avete provata, scriveteci o chiamateci 800 24 0024. In attesa di provare questa tecnica delle coppette, abbiamo a portata di mano due rimedi molto semplici che oggi impareremo a usare: la borsa del ghiaccio e la boule dell'acqua calda. Il sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Il vento caldo dell'estate. Allora, freddo, borsa del ghiaccio, boule dell'acqua calda, due tipi di borse che a dispetto della forma e del colore non passano mai di moda e che nelle nostre case non mancano mai o quasi mai. Le avete anche voi? Dove le tenete? A me capita, le metto in ordine sempre così bene che quando ne ho bisogno devo andare dalla vicina a farmi dare le sue. Ma comunque, risolto il problema, ordine, oggi cercheremo di capire quando è bene usare il caldo e quando è meglio usare il freddo, o ancora quando è il caso di usarle entrambe, magari alternate. Siete ferrati sull'argomento? Aiutatemi, intervenite in diretta, se avete dei dubbi schiaritevi le idee, chiamando il nostro numero verde, tornate a trovarci. Io sono molto felice, la dottoressa Laura Bertolini, lei è fisiatra, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa, direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo e autrice di Ascolta e guarisci il tuo corpo. Dottoressa Bertelè, buongiorno. Buongiorno a tutti. Non la ripresento più. Caldo e freddo sono due rimedi naturali che possono risultare molto utili nelle piccole e grandi emergenze quotidiane. Ma oggi poi vogliamo dare delle indicazioni, perché il caldo e freddo vengono anche utilizzati in quella che si chiama medicina fisica, che è quella branca della medicina che utilizza proprio gli agenti fisici naturali e artificiali a scopo terapeutico. Ma andiamo per ordine, dottoressa Bertelè. Quando usare il caldo, quando usare il freddo? Allora, in linea di massima dobbiamo avere presente che il caldo serve quando c'è del freddo all'interno del corpo, quindi quando abbiamo bisogno di un apporto di calore che dà quindi una sensazione di rilassamento muscolare, ma dà anche calore, quindi non deve essere usato quando c'è uno stato infiammatorio. Viceversa, sì, quando il freddo è proprio indicato quando c'è uno stato infiammatorio acuto e bisogna dare, rinfrescare. La sensazione della mamma che soffia sulla parte del corpo del bambino quando ha molto caldo, certo, quando gli brucia. Ad esempio, quando prendiamo una botta, molte persone vanno a sciare, è facile magari cadere, non farsi niente di grave, però picchiare il gin sul ginocchio oppure sentirsi un po' ammaccati. In quel caso meglio il freddo. Ecco, sì, alla neve ad esempio, se uno è sulla neve e cade, può mettersi subito della neve sulla parte che ha contuso. Anche se poi il freddo bisogna fare attenzione quando ci sono dei traumi importanti, perché bisogna anche permettere all'ematoma che si formi, cioè che il sangue esca e non si blocchi. Ecco, infatti, all'interno dell'articolazione. Grazie dottoressa Bertelè, mi ha suggerito questa domanda. Andiamo un po' alla posologia. Quali sono le regole da ricordare per quanto riguarda il freddo, la borsa del ghiaccio? Quando applicarla, per quanto tempo? Perché anche sì, questo può fare la differenza. Certo, una cosa a cui fare molta attenzione, mi ricordo in ospedale a volte mi arrivavano delle persone con delle ustioni da freddo, quindi bisogna stare molto attenti a non mettere la borsa fredda a contatto della pelle, perché brucia la pelle, sì. Quindi intanto bisogna sempre avvolgerla in un panno e poi toglierla ogni 5-10 minuti in modo di dare la possibilità alla pelle di riprendere, se no il freddo anestetizza, non si sente più, sì. E poi quando si toglie c'è l'ustione, invece c'è la bruciatura appunto da freddo. Quindi metterla a momenti, cioè tipo 5-10 minuti, poi la si toglie, si massaggia la pelle e si rimette. E poi non metterla tanto tempo, la borsa del ghiaccio. Mm. A livello di articolazioni, le uniche articolazioni in cui è molto importante mettere la borsa del ghiaccio sono le spalle. Quando si ha una periartrite, ad esempio, una periartrite acuta, che è un'infiammazione dei tendini che si chiamano della cuscia dei rotatori, cioè proprio della punta della spalla, ecco lì ci vuole il freddo. E sempre con questa prudenza, però, un po' freddo, poi si toglie, poi si rimette. Dottoressa, abbiamo parlato di contusioni. Apro una piccola parentesi. L'arnica la prendiamo subito. Ah, sì. Ecco, arnica e freddo. Tantissimo l'arnica, vero? Perché è molto buona nel ridurre anche proprio l'effetto della contusione, nel ridurre la formazione dell'edema, cioè quando si raccoglie il liquido, quindi si gonfia la parte dell'ematoma, cioè dell'uscita del sangue. Quindi sia localmente come in pacchi di pomata all'arnica, sì, olio di arnica, oppure anche per bocca si può usare a vari dosaggi. Se il trauma è molto forte, si arriva fino alla 200 CH, insomma, ecco, quindi cercate di non farvi male, ma se per dei traumi leggeri le indicazioni sono queste. Ma dottoressa Bertelè ha parlato di spalle, un ascoltatore mi scrive subito: ma la dottoressa Bertelè deve spiegarmi come faccio a tenere il ghiaccio sulle spalle. Beh, in effetti non è facilissimo, ma dottoressa Bertelè, si può fare una specie di imbragatura. Esatto, intanto. Ma quanto sono intelligente oggi? Ecco, poi mettere il ghiaccio, ad esempio, in un sacchetto di stoffa. Sì. Cioè mettere i cubetti di ghiaccio e adattarla alla spalla e poi non tenerla tanto tempo comunque, cioè 5-10 minuti, poi si toglie. Cioè non tenerlo ore, che certo, non va bene, non va mai bene il ghiaccio per tanto tempo. Vogliamo parlare anche del caldo, la bulle dell'acqua calda. Ecco, e per il caldo, siccome appunto io mi occupo in genere di muscoli e di articolazioni, trovo molto molto buoni i sacchetti che poi si possono comprare di nocciole di ciliegi o di farro, sì, che si possono scaldare nel forno a microonde. Sì. E sono, gli si può dare una forma adatta ad esempio alle spalle, alla schiena, sono un po' manipolabili. Oppure se una persona non ha a disposizione questi, io consiglio anche di prendersi una bella manciata di sale grosso, sì, avvolgerlo in uno strofinaccio, farne come un pacchettino, sì, metterlo nel forno a microonde e usarlo proprio come fonte di calore. In più il sale ha il grande vantaggio che toglie l'umidità, quindi se ci sono ad esempio edemi così aiuta al riassorbimento di edemi. Naturalmente deve essere bello protetto da un panno, certo. E poi anche per il caldo valgono, immagino, le stesse indicazioni che ha dato per il freddo. Non è vero che poi il caldo si stempera, sì, e diminuisce, comunque non troppo caldo ad esempio, chiaramente, di non farsi delle ustioni da calore, allora, e poi metterlo, toglierlo sempre ascoltandosi, cioè la cosa importante è sempre quella. Ascolta il tuo corpo, dottoressa, e questo vale per sempre. Gabriella ci scrive, perché intanto noi le passiamo i messaggi, per il post operatorio della plastica al naso, quanto tempo va tenuto il ghiaccio? Dottoressa Bertelè, dopo un intervento? Tra l'altro ho fatto anch'io un intervento importante al naso. Allora fantastico, siete quasi parenti. Cioè, va bene all'inizio, ma non troppo, è meglio che l'ematoma esca. Sì. Quindi piuttosto che defluisca, se no si rischia di fermarlo e dura molto di più. Quindi va bene i primissime ore, ma e poi basta. Lasciare. Ecco, piuttosto prendere l'arnica, prendere prodotti che fanno defluire l'ematoma. Abbiamo anche Elisabetta da Monza che ci chiama. Buongiorno Elisabetta, benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua. Sì, io ho telefonato perché avete chiesto se l'abbiamo provata. La tecnica delle coppette, lei l'ha provata? Io l'ho fatta più volte, sia a livello lombare sia per la cervicale, sì. E mi sono trovata bene. E chi le ha applicato le coppette? Io ho un fratello che è medico e allora fa un po' di omeopatia, quindi. E quindi si è affidata, alternative, si è affidata delle mani amiche. Dottoressa amiche. Bertelè, le abbiamo parlato di questa tecnica proprio con il nostro Simone Diamantini. Lei l'ha utilizzata la tecnica delle coppette? No, io l'ho subita, non l'ho fatta, nel senso che la sono fatta fare più di una volta. Sempre da esperti di agopuntura. Sì. Trovo che è buona come situazione mio rilassante, cioè che rilassi i muscoli e di riequilibrio energetico. Però appunto è chiaro che deve essere fatto da una persona molto competente dal punto di vista dell'agopuntura, perché si lavora sui piani energetici, quindi dietro i meridiani ci sono gli organi e quindi bisogna fare attenzione a non creare squilibri a livello organico, proprio degli organi. Elisabetta, quanto tempo ha dovuto aspettare prima di vedere i primi risultati, oppure è immediata? Elisabetta. Perché me l'ha fatta un giorno e poi nel giro di qualche ora l'ha rimessa a nuovo. Sì. Grazie Elisabetta per aver chiamato a Cuore Denari, intanto auguri. Dottoressa Bertelè, un'altra domanda a proposito di caldo. Andrea ci scrive: ma lo scaldasonno tutta la notte, dormire con questo caldino che ci avvolge sotto le coperte, lei lo consiglia oppure sarebbe meglio? Non particolarmente, preferisco piuttosto che ci siano dei materassi buoni che mantengano il caldo, oppure ci sono anche delle lenzuola ad esempio che mantengono il caldo naturale. Sono delle lenzuola spagnole che contengono una ceramica. Ecco, però non conviene un eccessivo calore, cioè, l'eccessivo non va mai bene, quindi un periodo, se uno ha male, va bene, si mette il sacchetto, usa lo scaldasonno, appunto, però poi conviene dormire in un calore più naturale. Assolutamente. Dottoressa Bertelè, quando invece è utile e raccomandabile usare il caldo e il freddo in coppia, ad esempio alle terme? Nei percorsi idroterapici il continuo passaggio dal caldo al freddo funziona come ginnastica vascolare. Il freddo restringe il calibro dei vasi sanguigni e il caldo invece determina l'effetto contrario. Tutto questo, chi l'ha provato lo sa bene, stimola un po', stimolando le pareti dei vasi e anche la circolazione sanguigna, ci dà questo effetto di tornare come nuovi, dottoressa Bertelè, perché ci sentiamo un po', ecco, come si dice, in gamba. A proposito, ci sono degli altri utilizzi, delle altre situazioni in cui l'alternanza di caldo e freddo può avere un effetto terapeutico o è consigliato? Ma dunque, se è localizzato, come può essere per le gambe, nel percorso Kneipp di cui faceva accenno prima, cioè quindi caldo, freddo, va molto bene come ginnastica vascolare, e anche a casa ce la si può fare con una vaschetta di acqua calda e una doccia fredda. Sì. Ricordandosi di finire sempre con la doccia fredda, in modo di dare una vasocostrizione, e soprattutto quando c'è un'insufficienza venosa. L'altra forma invece, quando è più generalizzata, come non so, nelle saune oppure nei bagni turchi, ecco lì bisogna fare molta attenzione, perché è uno sforzo cardiaco non da poco, in quanto c'è una vasodilatazione massiva di tutto il corpo e c'è una vasocostrizione poi come risposta. I finlandesi sono molto abituati a farlo, ecco, noi dobbiamo farlo con un pochino più di prudenza, perché può dare effettivamente degli effetti cardiaci. Anche ad esempio, io una volta ho avuto una crisi di vertigine alle terme dopo aver fatto una sauna e poi la doccia gelata, ecco, quindi fare attenzione a queste cose. Sì, perché poi le vertigini sono una sensazione bruttissima. Noi abbiamo fatto delle puntate molto belle, se soffrite di vertigini, con il professor Guidetti, che inviteremo presto a tornare a Cuore Denari. Intanto, dottoressa Bertelè, prima di lasciarla scappare, ma io i messaggi dei nostri ascoltatori a cui ho chiesto aiuto e prontamente mi aiutano. Franco ci scrive: mal di denti, caldo freddo? In genere è freddo. Tutto ecco, quello che è nervo, cioè proprio nervo come appunto il trigemino per i denti, sì, in genere beneficia del freddo. Il caldo è un'infiammazione, quindi il caldo aumenta il dolore. Invece, però sui muscoli, ad esempio sul collo, sì, sulle spalle, non le spalle nel senso quello che è il trapezio, cioè dal collo verso la spalla ci vuole il caldo, sì, sulla punta della spalla ci vuole il freddo. Vabbè, anche i punti, anche con i punti si cambia. Anna ci scrive: per la tendinite all'inguine ho usato la borsa del ghiaccio, mi sembra, esatto, che abbia fatto bene. Cosa, certo, ne pensa la dottoressa? Promossa anche Anna? Eh sì, perché è un'infiammazione, sì, sulle tendinite ci vuole il freddo e ancor più gli impacchi d'argilla, ma comunque insomma... No, me lo dica bene prima di salutarci dell'impacco d'argilla che... Io lo do molto come indicazione, perché l'argilla è un antinfiammatorio molto molto efficace, quindi si fanno degli impacchi sulla zona infiammata in modo di appunto disinfiammare la zona, tipo i tendini, o in genere proprio per i tendini, o anche le contusioni, gli esiti di contusione. Dottoressa, allora, in molte persone, proprio forse anche noi siamo un po' colpevoli, ma continuano, nonostante magari il tempo rigido di questi giorni, prima ci siamo lamentati del caldo, adesso fa freddo, comunque fanno attività fisica all'aperto, al freddo, magari senza un adeguato riscaldamento, e poi si pagano, no, gli effetti, perché poi i muscoli si lamentano. Ha un rimedio per lo sportivo, direi, non della domenica ma delle feste di Natale, che magari per smaltire proprio un po' i pranzi e le feste si mette a correre senza adeguata preparazione o magari senza l'attrezzatura adatta? Beh, quando c'è un accumulo di acido lattico, cioè i muscoli fanno male perché si è fatto un eccesso di sforzo, ci vuole il caldo. Cioè, quando si arriva a casa, un bel bagno caldo in modo di far ridilatare i muscoli, rilassare i muscoli e aumentare la circolazione, perché vengano smaltiti gli accumuli di acido lattico. Quindi bisogna intanto fare attenzione a non esagerare, perché poi si rischiano degli strappi, perché il muscolo freddo si strappa facilmente. Ecco, quindi a proposito di freddo, quindi bisogna il muscolo riscaldarlo prima di metterlo, esatto, in moto. Tenerlo a caldo, cioè sì, essere coperti bene, ecco. Allora, io devo dire che piovono messaggi, dottoressa Bertelè, ma io so che lei deve andare via, ma per il tendine d'Achille aiutiamo Marcello e poi una mamma di Ancona. Marcello, il suo tendine d'Achille come lo tratta? Ecco, per il tendine d'Achille, che è una delle patologie importanti, perché dipende in genere da non buona posizione della schiena, quindi è una conseguenza di una situazione più ampia. Localmente sempre gli impacchi d'argilla, si fa una pappetta con argilla verde ventilata in modo che sia bella soda, ci si aggiunge un cucchiaino di olio di arnica, si fa uno strato di un centimetro, lo si avvolge con carta igienica e poi lo si tiene un'ora e mezza, due. È ancora una delle cose più efficaci. Ecco, e poi, questa vi abbiamo sistemato, come si dice, per le feste. Una mamma di Graziella di Ancona ci scrive che suo figlio ha avuto un incidente un mesetto fa e ha avuto una lussazione dell'anca rientrata, sì, con la manovra manuale in anestesia, ma ancora, ci scrive letteralmente, tanto ematoma. Come fare per aiutare il riassorbimento? Allora, gli ematomi in fase non acuta bisogna usare il caldo umido, quindi impacchi caldo-umidi. E l'ematoma si riassorbe. E anche l'argilla, però appunto è una situazione d'anca, una cosa importante. Quindi ecco, bisogna... trattandosi di... è meglio, perché parlare con il medico aiuta sempre, dottoressa Bertelè. Aiuta a Cuore Denari, ma anche aiuta a raccogliere delle informazioni per riportare al proprio medico curante. Dottoressa Bertelè, adesso la saluto veramente. Arrivederci a tutti. L'abbiamo catturata anche a lei, l'abbiamo catturata, non la lasciamo più, ma abbiamo catturato anche un altro amico di Cuore Denari, il professor Dino Vaira, gastroenterologo e professore universitario di medicina interna all'Alma Mater di Bologna. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, ma a tutti i radioascoltatori. Come potevamo finire l'anno senza di lei? È impossibile. Impossibile, anche perché sarà l'influenza, saranno le feste, sarà questo freddo che è venuto dopo il caldo, ma la nostra pancia duole. E allora quando la pancia duole, il professor Vaira risponde: ma lo teniamo lì, andiamo a sentire i mercati, che cosa sta succedendo, e poi ritorniamo subito dopo con i rimedi. La pancia fa male, caldo, freddo, chiamateci e scriveteci. Cuore e denari. No, per carità, non misuriamola proprio in questi giorni, lasciamola lì dov'è, mettiamoci abiti comodi, ma se fa male chiamateci 800 24 00 24. Oggi insieme al professor Vaira cerchiamo di affrontare l'emergenza. Quando la nostra pancia ci lancia un SOS e fa male, a crampi, una fitta, noi che cosa facciamo? Mettiamo il caldo, mettiamo il freddo, non mettiamo nulla, ci mettiamo a dieta, digiuniamo? Professor Vaira, intanto arrivano già subito i messaggi dei nostri ascoltatori. Valeriano ci scrive: per lo stomaco dolente secondo me è ottimo bere un mezzo bicchiere di gel di aloe allungato con mezzo di acqua. Professore? No comment, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Allora, questo non gli è piaciuto, però se funziona, che cos'ha contro il gel di aloe, dottore? Non ho nulla contro il gel di aloe, ho solo più confidenza con i rimedi della nonna. Ah, ok. Con un bel pannuccio caldo, con un bel bicchiere d'acqua calda, con un solo cucchiaino di miele o di zucchero. Quindi lei è più per Francesca da Udine, che ci scrive che per il mal di pancia di solito utilizza una borsa dell'acqua, immagino calda, e beve del tè caldo. Grandioso. Francesca, grandioso. Francesca parte un libro, ma farei partire un libro anche per Valeriano, perché bisogna anche utilizzare degli altri rimedi, dottor professor Vaira, che dice? Probiotici, probiotici, il nostro cavallo di battaglia, ma questo è il futuro, mia cara, perché noi dobbiamo assolutamente sostituire, se Dio vuole, nei prossimi 10, 20, 50 anni i farmaci ai nostri batteri con cui noi ci siamo nati. Lei c'è nata, io sono nato, sua figlia c'è nato, mio figlio c'è nato, quindi questo è il futuro, cioè di trattare i nostri pazienti non con questi meravigliosi, strepitosi farmaci che hanno sempre per definizione effetti collaterali, e invece utilizzare i probiotici come arma di difesa, perché tutto è lì. Quando c'è un disequilibrio tra i batteri buoni e i batteri cattivi, la prima organo che inizia a soffrire è proprio il pancino, perché fisicamente abitano lì questi, certo, miliardi di batteri. Hanno la loro residenza lì, il loro codice fiscale lì, la loro partita IVA lì. Professor Vaira, allora apriamo una parentesi: probiotici, istruzioni per l'uso, come sceglierli, come utilizzarli, per quanto tempo e soprattutto in forma preventiva o vanno bene anche nell'acuto? Professore. Innanzitutto nell'acuto, sinceramente. Come dire, il probiotico è sempre positivo, tenga presente che noi siamo sempre fatti in maniera divina, a dispetto di tutti i medici del mondo, a dispetto di tutti i medici del mondo, esatto, ringraziando il cielo, non a caso Ippocrate 2000 anni fa, giorno più giorno meno, disse primum non nocere, nel momento in cui un dottore non fa dei danni ha già fatto il 70% del suo lavoro. Quindi 2000 anni fa i batteri nel pancino c'erano già, mi segue, vero Nicoletta? Certo, quindi sono noi qua. Assolutamente dobbiamo tentare di non alterare gli equilibri che il Signore, per chi ci crede, io ci credo, ci ha fatto in maniera veramente meravigliosa e perfetta. Perciò non voglio la prevenzione, perché la prevenzione, ringraziando il cielo, me l'ha data la mia mamma, gliel'ha data la sua mamma, con tutti i meravigliosi anticorpi. Quindi noi utilizziamo invece i probiotici quando c'è un problema, quando c'è un disequilibrio, quando appunto, come giustamente diceva lei, abbiamo il male al pancino. Professore, ma quando parliamo di probiotici, e così rispondiamo anche ai nostri ascoltatori, per non essere generici, come ci scrive Aldo, quali prendo, per quanto tempo li prendo, bisogna fare una cura. Una miscela di bifido e lattobacilli sono in assoluto i migliori probiotici, ce ne sono tantissimi in commercio, ma questi due ceppi in assoluto sono quelli che funzionano di più. Lattobacilli e bifidobatteri. Si prendono a digiuno? Si prendono a digiuno una sola volta al mattino prima di colazione, un minuto prima di colazione. Non è un farmaco, diciamo ai nostri radioascoltatori, non è un farmaco. Quindi si prende un minuto prima di fare colazione e abbiamo già risolto l'80-90% dei nostri problemi. Per quanto tempo? Almeno per 4 settimane, almeno per 4, non è un farmaco, in positivo e in negativo, quindi non è che io prendo la pillolina e dopo 24 ore non sto bene e la pillolina non funziona, non è così che funziona il probiotico regolarizza, questo è il bello del probiotico, quindi come dire, chi ha la stitichezza lo regolarizza, chi ha la sindrome diarroica la regolarizza. Professor Vaira, probiotici anche ai bambini e quando nel Why caso? Not? Assolutamente sì, quando hanno il male al pancino. Quindi quando il bimbo gioca e sta bene bisogna tenerlo lontano dai medici, bisogna chiamare di corso il telefono azzurro. Quando il bimbo invece ha il male al pancino, allora per l'amor di Dio, ancora una volta, a maggior ragione perché sono dei bimbi, invece di dare questi maledetti antibiotici, basta una linetta di febbre, invece si danno dei probiotici e si tiene la linetta di febbre in modo che il piccolino possa sviluppare degli anticorpi suoi. Allora, a questo medico saggio, come ci scrive Francesca e ci aggiunge finalmente, chiediamo anche, vorrei chiedere, professor Vaira, prima di salutarla, qual è invece il mal di pancia che deve suonarci un po' come un campanello d'allarme? Quando ci altera la qualità di vita, quando non riesco più a lavorare, quando non riesco più a essere felice con mia moglie o con mio marito, quando non riesco a essere felice con i miei figli, cioè ci altera la qualità di vita, cioè sono arrabbiato per tutto il giorno, opla, perché questa pancia non mi dà tregua, opla, allora fermi tutti, bisogna andare dal dottore. E il primo dottore che bisogna visitare è sempre il nostro meraviglioso medico di base, è lui che deve fare da screening, deve fare da cut-off. Professor Vaira, allora abbiamo raccolto tutte le informazioni, probiotici, andiamo avanti così, intanto lo aspettiamo presto nel nuovo anno a Cuore Denari. Professor Vaira, grazie, un abbraccio. A vostra disposizione, auguri e buon anno a tutti. Viva la RAI, mi fa crescere strani, viva la RAI. Viva la RAI, canta Renato Zero, e lo sapete che quando si nomina la RAI qui a Cuore Denari si parla di canone, quindi dalla pancia cambiamo decisamente argomento in questa settimana di consigli e anche di promemoria per gli impegni finanziari del nuovo anno che interesseranno tutte le famiglie. Questo tema naturalmente non poteva mancare. Non poteva mancare il nostro amico Mauro Antonelli, esperto dell'Unione Nazionale Consumatori, che in tema di canone RAI torna a supportarci in diretta e a rispondere ai vostri dubbi. Benvenuto e bentornato. Buongiorno. No, forse sei collegato comunque al mal di pancia, non c'è un collegamento. Vero? Quale collegamento hai trovato tu? No, per fare la dichiarazione in alcuni casi è talmente complicata che in effetti viene il mal di pancia, comunque vabbè. Ecco, se vi è venuto mal di pancia per la dichiarazione 800240024, faccio solo una comunicazione di servizio. Molti di voi ci stanno scrivendo via WhatsApp per segnalare la loro intenzione a smettere di fumare con il nostro aiuto. Potete farlo anche scrivendoci un'email a cuoredenari@radio24.it e vi seguiremo e vi organizzeremo un po' un percorso. Intanto 800 24 00 24 se avete avuto qualche piccolo intoppo nel 2016 col pagamento del canone RAI, oppure se ci sono dei dubbi per l'anno nuovo. Allora Antonelli, iniziamo con qualche dato sul 2016, il bilancio del primo anno in cui il canone RAI viene pagato con la nuova modalità dell'addebito automatico nella bolletta della corrente elettrica. L'Agenzia delle Entrate stima al 31 dicembre un incasso complessivo di oltre 2 miliardi dal canone RAI. Secondo la direttrice dell'agenzia Rossella Orlandi, il meccanismo finora ha funzionato, anche se con qualche fatica. Quindi, insomma, per la RAI obiettivo raggiunto? Si è riusciti con questo nuovo metodo a superare il fenomeno del nero e dell'evasione del canone? Ma secondo noi sì. Nel senso e che per noi i consumatori abbiamo... che ci interessano in modo particolare, come è andata? Lei che bilancio traccia? Allora, ai fini del recupero dell'evasione, noi non abbiamo mai messo in dubbio che il metodo sarebbe stato efficace. Mm. Anche la tortura, diciamo così, è un buon metodo. Sì, però noi abbiamo fatto un comunicato il 19 novembre del 2015, sì, prendendo per buoni i dati, diciamo, contenuti, gli iscritti a ruolo, e che vuol dire abbonati, paganti, più utenti morosi, avevamo stimato un maggior gettito pari a 400 milioni di euro con evasione pari a zero e 196 milioni di euro con evasione pari al 7%. Sì. Prendendo per buona questa stima, vorrebbe dire che è rimasta un'evasione del 3,5%, che rispetto al precedente 27% o 30% a seconda delle stime è decisamente un bel passo avanti. Prendendo per buoni i dati Istat dell'indagine multiscopo, secondo i quali sono addirittura 25 milioni e 100 mila famiglie, sono solo 944 mila quelle che non hanno la TV, allora lì il maggior gettito poteva arrivare addirittura a 547 milioni di euro con evasione pari a zero. Noi abbiamo contestato il metodo rispetto al fatto che, al di là della solita inversione dell'onere della prova, che è tipica con il fisco, per cui la presunzione, diciamo, di avere un apparecchio per il solo fatto di avere una fornitura di energia elettrica era in qualche modo un abuso, al di là della violazione dello statuto del contribuente, dei 60 giorni che dovrebbero essere dati per gli adempimenti tributari che non sono stati dati in questo caso, il problema è veramente il fatto che l'onesto contribuente che aveva sempre pagato il canone della RAI si è trovato di fronte a un disagio incredibile, perlomeno nel 2016. Sì. Guardi, le faccio l'esempio del mio vicino di casa, che è inviato lui a tre case. Allora, dove è residente nel mio condominio non ha ricevuto il canone RAI. Nelle due seconde case ha ricevuto il canone RAI. Utenza elettrica sempre intestata a lui, quindi non doveva fare alcun tipo di dichiarazione. Quindi ha dovuto presentare due richieste di rimborso per le due seconde case, certo, e pagare sulla prima casa con modello F24. Come quindi di fatto fare ha pagato io 300 euro ed è in attesa di ricevere gli altri 200. Capisce bene che c'è qualcosa che non quadra, no? Certo. Senta, però ad esempio un ascoltatore mi scrive: io ho pagato sempre la RAI, immagino il canone, ma ora non mi è arrivato in bolletta. Come mi devo comportare? All'Enel non mi sanno rispondere. Come si doveva comportare? Bisogna parlare al passato, perché... Allora, diciamo che bisognava pagare entro il 31 ottobre con modello F24, tutti 100 euro in unica soluzione, dopo aver fatto i vari solleciti alle imprese elettriche. Però è ancora in tempo, secondo noi, lo faccia, perché secondo noi, anzi, lo faccia possibilmente magari prima della fine del 2016, nel senso che sono previste delle sovrattasse per il ritardato pagamento. Vi ricordate quando nei telegiornali vi dicevano con una piccola sovrattassa? Ecco, sì, secondo noi per quest'anno l'Agenzia delle Entrate chiuderà un occhio, è un'ipotesi, vista tutta la confusione. Quindi prima pagate meglio è. Comunque anche se ci fossero le sovrattasse, in ogni caso, siccome vanno a seconda del ritardato pagamento, quindi nei primi 30 giorni, al di là del fatto che i 30 giorni scattavano dal 31 gennaio, è semplicemente un ventesimo del canone, poi diventa da 30 a 60 giorni un decimo, poi intanto che lei fa questi conti, io le interrompo un attimo, intanto i conti poi continueremo a farle, soprattutto a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo con il nostro canone e il nostro esperto. Cuore e denari. Ultimi minuti di trasmissione a Cuore e denari, ci occupiamo del canone RAI. Il nostro esperto di oggi, Mauro Antonelli, esperto dell'Unione Nazionale Consumatori. Tante le domande che stanno arrivando, e segno che, Antonelli, non c'è ancora tanta chiarezza su questo, perché ad esempio un ascoltatore ci scrive: io non ho capito se per una casa data in affitto paga il canone RAI il proprietario o l'affittuario. Allora, la pagherà il vicino di casa di Antonelli, che intanto di case ne ha tante, tanto che c'è, paga anche quella degli altri. Se paga tutto il condominio, sono sei piani, quindi non so se gli conviene. Comunque, allora, paga chi ha il possesso del televisore, quindi in questo caso è l'inquilino. Quindi se il proprietario affitta una casa e con tanto di televisore, e l'inquilino quindi è all'interno dell'abitazione, ovviamente paga l'inquilino, quindi non il proprietario, non chi ha la proprietà del televisore, ma chi in qualche modo ne ha, detiene il possesso di questo televisore. Sì. questo tra l'altro ha creato un bel po' di problemi, perché succedeva che in alcuni casi, ad esempio per gli affitti molto limitati nel tempo, magari 3-4 mesi eccetera eccetera, non viene fatta la voltura del contatore all'inquilino, e quindi il proprietario avrebbe dovuto fare la dichiarazione, nel caso magari di utenza diversamente intestata all'interno della propria famiglia, avrebbe dovuto fare la dichiarazione per dire io non pago dove c'è l'inquilino, e l'inquilino avrebbe dovuto pagare con modello F24, non avendo un'utenza elettrica, sempre che sia ovviamente l'unica casa a sua disposizione, sì, certo, avrebbe dovuto pagare come modello F24. E cosa hanno fatto invece molti? Il proprietario ha pagato e poi si è fatto ridare i soldi dall'inquilino, ma non è un buon metodo questo, lo dico, perché poi alla fine l'inquilino risulta di fatto evasore, perché se poi fanno il controllo con l'anagrafica del comune risulterà residente in quella casa, ma non risulta che ha pagato il canone. Quindi la cosa migliore è regolarizzare la posizione. Allora, comunque, dal prossimo anno ci sarà un po' di sconto? Sì, diciamo che da 100 euro passiamo a 90. Ma il meccanismo resterà lo stesso, quello di riscossione, intendo? Diciamo che siccome se sono buoni i dati dell'Agenzia delle Entrate, quindi se l'extragettito è di 300 milioni, intanto diciamo che il canone avrebbe potuto essere di 85 euro e non di 90. Già, quindi diciamo 5 euro facciamo, in più paghiamo. Ecco, 5 euro in più che moltiplicati, ecco, fanno una bella cifra. Ci saranno le solite 10 rate da 9 euro ciascuna, in questo caso, visto che diventa 90 euro, e come al solito andranno da gennaio ad ottobre, quindi avremo 9 euro mensili, se la bolletta mensile, se la bolletta bimestrale avremo 18 euro a bimestre. Ecco, ma dove troviamo questa voce del canone nella bolletta? Come la cerchiamo? Sia ecco, mensile che bimestrale? Bisogna organizzare una caccia al tesoro, perché purtroppo l'autorità ha dato delle disposizioni ma non così stringenti, quindi delle 487 società elettriche ognuno ha fatto un po' come gli pareva, per cui alcune la mettono in modo specifico solamente nell'ultima pagina, quella col dettaglio, quella cosa complicatissima che non leggiamo che mai. Nessuno legge. Esatto. E nella prima pagina alcune non hanno messo canone RAI, ma hanno messo ad esempio altri servizi, altre voci, altre partite. In alcuni casi non è la cifra tonda che ci aspettiamo, il famoso multiplo di 10 per lo scorso anno e il multiplo di 9 per quest'anno. Perché? Perché magari c'erano addirittura in queste altre voci gli arrotondamenti delle bollette precedenti. Quindi bisogna stare molto attenti e leggere anche la famosa ultima pagina a cui nessuno arriva, perché già alla prima ti sei stufato. Ecco, invece bisogna. Senta, ma se non la trovo questo addebito, questa 9 euro che saranno la voce, se non. Allora. Diciamo così, per gennaio io non mi allarmerei, perché allora ricordiamo che questo abbassamento diciamo a 90 euro è stato fatto in questa legge di bilancio che è stata pubblicata il 21 dicembre ed entra in vigore il 1 gennaio. Sì. Allora è possibile che le società elettriche magari in una bolletta del tipo dicembre-gennaio non mettano subito il canone, anche se in realtà dovrebbero, ma perché magari l'hanno lavorato in precedenza. Quindi io mi allarmerei a partire dalla seconda bolletta. Se è così, chiamate la società elettrica, possibilmente sollecitate il tutto con un fax, con un'email, magari per iscritto, e verificate a questo punto se poi arriva effettivamente o no il pagamento. Andiamo a Mario, ci chiama da Venezia. Buongiorno Mario. Buongiorno a voi, buona giornata. Lei abita proprio a Venezia città? No, nella terraferma. Però è sempre bellissima. Mario. Sì. Il problema che state ponendo è veramente grave. Pensavo che il 2016 fosse il momento del travaglio e invece sta diventando una costante. Sì. Nel senso, dobbiamo noi contribuenti o comunque cittadini andare a rincorrere lo Stato. Su questa questione del canone, ad esempio, dico un punto di caduta. Non c'è un interlocutore. C'è un numero verde che dà delle risposte programmate, quindi non c'è uno che ti dice dimmi il tuo problema qual è, te lo risolvo. Nel mio caso, 2017, si pone il problema di nuovo di uscire da questa questione del canone e dichiarare ad esempio il non possesso del televisore. E questa cosa significa che bisogna fare un'autodichiarazione. Sì. Bisogna quindi andare su internet, non è detto che io ce l'abbia, scaricare un modulo, compilarlo. Se sei bravo utilizzi il sistema FiscoTel e quindi lo spedisci in via telematica, sempre se che non tu sei abbia bravo, internet, se non sei bravo ti incarti. Sì, se no devi andare in posta e devi pagarci anche sopra dei soldi di raccomandata. Il tutto dovrebbe essere fatto entro il 31 gennaio. Con amarezza ho scoperto da qualche giorno, quindi da pochissimo, che invece conviene farlo entro il 31 dicembre. Perché? Se no già a gennaio ti cominciano a caricare il canone, anche se tu non sei possessore, quindi la tua dichiarazione andrebbe fatta entro il 31 dicembre, in modo anticipato. Ma su questo non c'è chiarezza. Grazie Mario, lei è stato invece molto chiaro e la ringrazio per averci chiamato. Antonelli. Allora, questo è uno dei motivi per cui questo metodo è assurdo, nel senso che nella legge di stabilità Ma diamo delle indicazioni. Sì, allora, intanto esistono dei numeri da contattare per parlare, diciamo, con un essere umano, sia il numero dell'Agenzia delle Entrate, che trovate sul sito dell'Agenzia 848-800-444, sia il numero verde. Abbiamo fatto noi la battaglia per avere il numero verde della RAI, che è 893-83-62. Rispondono umani? Rispondono esseri umani, sì. Magari non sempre le risposte sono esaustive, ma rispondono esseri umani. Dopodiché il vero problema è che per il famoso quadro A, la dichiarazione di non possesso, siete tenuti a fare la dichiarazione a vita. Cioè ogni anno siete costretti a ripresentare la dichiarazione. Perché uno al televisore può comprarlo? Sì, ma teoricamente non deve comunicare la variazione, certo. Invece ogni anno ti costringono, ti prendono sostanzialmente per il collo, sì. E ti costringono ogni anno a fare queste dichiarazioni, anzi probabilmente devi farle anche dopo morto, perché se diciamo l'utenza elettrica è rimasta attiva dopo che tu sei morto, l'erede gli tocca fare le dichiarazioni per te dicendoti che tu non hai la televisione. Sì, non ce l'hai e non la guardi più, o almeno non esatto. Di qua. Quindi questo è il problema. Allora, effettivamente per legge c'è tempo fino al 31 gennaio, dopodiché l'Agenzia delle Entrate un comunicato che è passato diciamo inosservato, un comunicato di 5 dicembre ha fatto presente che siccome la prima rata arriva già a gennaio, sarebbe opportuno diciamo fare tramite posta entro il 20 dicembre e per via telematica o tramite CAF entro la fine di dicembre, perché altrimenti cosa succede? Che nel frattempo ti addebitano la prima rata di gennaio o magari addirittura gennaio e febbraio e quindi sei costretto a presentare una domanda di rimborso, il che vuol dire che è una trafila incredibile. Quindi nonostante la legge prevede il 31 gennaio, questo meccanismo ha fatto sì che addirittura uno è costretto a presentare la dichiarazione addirittura un mese e mezzo prima per essere sicuro di essere preso in considerazione. Questa è la storia. Antonelli, di qua, insomma, abbiamo il nostro amico diceva pensavo che fosse un travaglio il 2016, ma a leggere anche dei messaggi dei nostri ascoltatori la situazione è ancora abbastanza un po' fumosa, diciamo che va meglio direi. Per la famosa doppia utenza elettrica, nel senso che il famoso invece quadro B, quindi quando devi dichiarare che c'è un altro che deve pagare il canone per te, sì. Un altro componente della famiglia, allora lì se non ci sono state variazioni e non hanno sbagliato ovviamente nel 2016, non bisognerebbe niente, salvo appunto che ci sia qualche cosa di nuovo, quindi acquisti una seconda casa, l'utenza elettrica diventa residenziale ugualmente ed è intestata la moglie, allora lì bisogna rifare le solite dichiarazioni di prima. Ma se non ci sono state variazioni, tutto è andato a buon fine nel 2016. Andrà bene anche nel 2017. Dovrebbe andare bene anche nel 2017. Dai, questo ce l'auguriamo. Antonelli, Fabio da Prato ci scrive: le lagnanze di chi non vuole pagare il canone così sono solo quelle di evasori. Io l'ho sempre pagato e mi fa piacere che lo abbiano caricato sull'elettricità e fa piacere probabilmente a tanti. L'importante è che questo caricamento, tra virgolette, sia fluido, efficace, che non ci faccia perdere altri tempi e soldi. Antonelli, questo è un po' quello che chiediamo, di avere della trasparenza e di non avere la vita complicata anche dal canone RAI. Sì, diciamo che ripeto, per gli evasori vabbè, è stato anche giusto, insomma, almeno pagano. Certo. Ricordiamo che l'importo era 113,50, adesso è diventato 90 euro. Il problema vero è per chi, io penso alle persone ad esempio anziane. Che hanno difficoltà, che appunto non hanno le credenziali per andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, eccetera, eccetera, per fare le dichiarazioni. Ecco, adottate un nonnino, aiutatelo. Ecco, finiamo questo anno con un po' di bontà. Grazie ad Antonelli, auguri anche a lei. Domani torniamo alle 10:30 e torniamo perché ci sarà anche Deborah, vi aspettiamo.